2024 2024 di Enrico Pagliarini. Ed eccoci di nuovo insieme, questo è 2024, il programma di tecnologia di Radio 24. Ci trovate su Twitter, Facebook, al nostro indirizzo di posta elettronica 2024@radio24.it. In molti attendevano l'approvazione in Consiglio dei Ministri del decreto comunicazione, anche perché l'abbiamo annunciato, è stato annunciato da più parti. Decreto che dovrebbe tradurre la strategia per la banda ultralarga approvata ormai dal governo il 3 marzo, quindi sono passati più di 3 mesi. Allora, tutto è stato nuovamente rinviato, il testo è stato analizzato dal Ministero dell'Economia e da giovedì è nelle mani del Ministero dello Sviluppo, e quindi questa sarebbe la ragione per cui non c'è stato il tempo, non è stato analizzato dal Consiglio dei Ministri, si è arrivati un po' troppo lunghi questa settimana. Allora, ricordiamo che nel programma con cui Renzi si presentò alle primarie del 2012 c'era scritto che l'obiettivo è realizzare un Next Generation Network, tendenzialmente con questa parola si definisce una nuova rete in fibra ottica messa a disposizione di tutti gli operatori di telecomunicazioni di proprietà di un soggetto esclusivamente pubblico senza fine di lucro e non scalabile, promosso da Cassa Depositi e Prestiti. Allora, di sicuro questa promessa non verrà mantenuta, però visto che io sono uno di quelli che tengono i programmi elettorali, poi se li vanno a rivedere dopo un po' di tempo, però ci sono alcune indicazioni nella strategia del governo per la banda ultralarga sicuramente interessanti. Vedremo quanto questo decreto saprà pensare al futuro, saprà pensare al paese, ai cittadini, alle imprese e non alle lagne di qualche operatore che giustamente dal proprio punto di vista guarda al proprio particolare, ma lo Stato deve guardare all'interesse nazionale, dovrebbe guardare all'interesse nazionale. Allora, nelle bozze che sono circolate, ad esempio, questo è solo uno degli esempi, ma è molto facile da comprendere, si fa riferimento a questa bozza che già dovrebbe essere fatta e finita. Si fa riferimento a connessioni simmetriche che possano potenzialmente fornire connettività ad almeno 100 megabits. Allora, naturalmente stiamo pensando al futuro, quindi c'è chi dice: ma che cosa ce ne facciamo di 100 megabits? Magari oggi, a parte le aziende, magari oggi poco, ma sicuramente nel giro di 3, 5, 7 anni questa sarà una connessione necessaria. Allora, il fatto che ci sia un riferimento a connessioni simmetriche non è un riferimento messo lì a caso, perché se vogliamo, come ci dice e ci suggerisce l'Unione Europea, incentivare i servizi e l'uso del cloud, abbiamo bisogno di connessioni simmetriche, cioè fibra e non rame, e già oggi gli operatori di telecomunicazioni dovrebbero cominciare a offrire, laddove è possibile, laddove tecnicamente è possibile, connessioni un po' più simmetriche rispetto a quelle che ci vengono fornite oggi. Vedremo quello che succederà. Adesso abbiamo un altro argomento che abbiamo seguito questa settimana. I'd like to tell you about something that we've been working really hard on and something we are super excited about. You know, we love music. And music is such an important part of our lives and our culture. Today we're announcing Apple Music, the next chapter in music. Allora, all'inizio della settimana Tim Cook, il grande capo della Apple, ha convocato i giornalisti in California per annunciare l'arrivo di una serie di novità a partire da Apple Music. Se ne è parlato tanto, era un servizio molto atteso, si sapeva che Apple avrebbe lanciato un servizio di streaming online, sarà attivo dal 30 giugno a 10 euro al mese, sarà gratis per i primi 3 mesi, ma poi non ci sarà una versione gratuita. È di fatto un nuovo concorrente di Spotify, che integra anche un servizio, che oltre ad integrare il servizio di streaming on demand, ci sarà anche la gestione della propria musica e una sorta di social network che metterà in contatto fan e artisti. Non sono molto fiducioso che questo social network, che si chiama Connect, funzionerà. Poi c'è un'altra novità. Now let's talk about radio. The truth is, internet radio isn't really radio. It's just a playlist of songs. And so we wanted to do something really big. We wanted to create a worldwide live radio station broadcasting around the globe. And we've done that Allora, l'altra novità è una radio vera e propria, si chiamerà Beats One, sarà in streaming su internet, è trasmessa con dei veri e propri DJ da Londra, New York e Los Angeles, sarà sempre in diretta e sarà curata da Zane Lowe, che è uno dei DJ più noti della BBC. Se fossimo in Gran Bretagna sarebbe un DJ piuttosto famoso, che è stato assunto dalla Apple qualche mese fa proprio per questo obiettivo. È sicuramente una proposta strana, quella della radio, come dicono alcuni negli Stati Uniti, real radio, non una radio automatica su internet. È una proposta interessante, strana, un po' bizzarra per i tempi che corriamo, però Apple ha detto: vogliamo delle persone vere, in carne ed ossa, che danno consigli sulla musica, e quindi scelgono loro la musica e non le macchine. Devo dire che fino ad oggi Apple non ha mai fatto l'editore, quindi non si è messa mai né a scrivere notizie né a pubblicare qualsiasi altro genere di testi, non l'ha fatto nemmeno nella musica, quindi questa sicuramente è una novità molto interessante. In ogni caso non stiamo parlando di una rivoluzione, perché stiamo parlando di un servizio che tutto sommato sembra molto simile a Spotify. Certamente, se una piccola percentuale degli utenti di Apple diventeranno anche clienti di questa radio, ma molto probabilmente Apple Music, questo nuovo servizio di streaming on demand, diventerà il numero uno al mondo. Beh, vedremo quello che verrà proposto dal 30 di giugno. Sono particolarmente curioso di sentire Beats One, perché, ripeto, in un mondo che è pieno di radio digitali, molte automatiche, ma molte anche radio normali che vengono ripetute online, e quindi di fatto sono radio vere e proprie che si possono ascoltare da qualsiasi parte del mondo, è sicuramente una proposta molto interessante, perché dietro ci sono investimenti molto importanti, ma anche un po' bizzarra. Però sono particolarmente curioso per capire che cosa ha creato Zane Lowe assieme alla sua squadra di DJ. Questa radio molto probabilmente non avrà pubblicità, quindi questo potrebbe essere sicuramente un fattore competitivo molto interessante. Dovrebbe anche avere una sorta di integrazione con tutto il mondo music, con l'offerta di musica. E poi va anche detto che in termini di mercato, se anche una, come dicevo poco fa, se anche una piccola percentuale degli utenti passano da Spotify a questo nuovo servizio, o persone che oggi non hanno un servizio di questo tipo si abbonano pagando questi 10 euro, adesso il prezzo non è stato ancora comunicato per il mercato italiano, ma molto probabilmente si adeguerà al mercato, questo servizio ha le carte in tavola, le carte in regola per diventare il numero uno al mondo. Basta non essere peggio di Spotify, non è che ci vuole molto. Allora, altre novità lanciate da Apple riguardano il nuovo sistema operativo iOS 9, che sarà disponibile dall'autunno. Forse la novità più interessante quella che riguarda l'intelligenza di Siri, che dovrebbe diventare molto più intelligente, cioè l'assistente virtuale di Apple dovrebbe allinearsi alle proposte della concorrenza, in primis a Google Now, dovrebbe aumentare anche le capacità predittive, vedere quello che succede sul nostro telefono, i messaggi che ci scambiamo, le email che abbiamo, gli appuntamenti che abbiamo, e cominciare a suggerire qualche cosa prima di quando noi ce ne accorgiamo e magari è troppo tardi. Le nuove caratteristiche del software daranno anche maggiore autonomia alla batteria, e qui si va a colmare un gap che riguarda tutti i produttori di smartphone. La durata della batteria è uno dei problemi più grossi. Poi ci saranno anche novità per Apple Pay e una nuova applicazione che si chiama News, che è un sistema per integrare varie fonti, una sorta di Flipboard integrato nel sistema operativo. Ma per il momento sia Pay che News non riguardano il mercato italiano, quindi attendiamo di sapere quello che succederà. Diciamo che molte caratteristiche di iOS 9 sono evoluzioni di cose che già esistono sul mercato, già viste, quindi la novità è che vengono integrate nel sistema operativo. Forse molti si erano abituati a grandi annunci di Apple, in questo caso a parte forse il servizio di musica, ma questo dovrà essere poi testato sul campo. Non c'è stato nulla di particolarmente rivoluzionario, ma sicuramente servono tutte queste novità che sono in arrivo per colmare alcuni gap e per continuare a mantenere questo ecosistema al vertice del mercato, perché ci sono naturalmente quelli che sono sostenitori di Android e quelli che sono sostenitori di Apple, ma non c'è dubbio che il sistema Apple è al vertice del mercato e iPhone è sicuramente una delle migliori proposte sul mercato. Alcuni continuano a dire che è la migliore, molto difficile, molto probabilmente lo è per tutta una serie di fattori, non ultimo il fatto che sia il software che la macchina viene prodotta dallo stesso soggetto, mentre per Android nella stragrande maggioranza dei casi non è così, però il dibattito potremmo dire è aperto. Questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24, tra poco le nostre Digital News, poi ci occuperemo di sicurezza informatica e faremo una chiacchierata molto approfondita sul coding. È un tema estremamente importante, parleremo anche di fatto di bambini e quindi non solo di programmazione, non solo di sviluppo software. Ci risentiamo tra un minuto. 2024 è anche su Facebook e Twitter. Cerca 2024 o Enrico Pagliarini. 2024. Se avete bambini o se avete nipoti, parenti che hanno bambini o amici che hanno bambini, tra poco parleremo di programmazione, di sviluppo software con un'esperienza che parte pensando proprio ai bambini. Ma poi naturalmente è un discorso che vale per tutti, ma in modo particolare per i bambini. Adesso le nostre Digital News, alcune notizie in breve selezionate durante la settimana. Digital News. Allora, la prima notizia riguarda sempre la musica in streaming. Dopo l'annuncio di Apple Music, non a caso è arrivata questa settimana la notizia che Spotify ha raggiunto nel mondo 75 milioni di utenti attivi, di cui 20 milioni di abbonati paganti. Un po' un messaggio anche al mercato, alle case discografiche, eccetera, eccetera. A proposito di Spotify, Telia Sonera, che è l'operatore di telecomunicazioni principale della Scandinavia, ha investito 115 milioni di dollari per l'1,4% della società, che varrebbe così 8,2 miliardi. È un messaggio importante. Ricordo che Spotify è svedese, quindi Telia Sonera è, diciamo, tra gli operatori di telecomunicazioni è quello più vicino, quindi ha investito questo denaro ed è la prima volta che si può fare una valutazione di questo tipo grazie a questo investimento. Digital News. Adesso invece parliamo di video in streaming. Anche Mediaset si prepara all'arrivo di Netflix, che sarà in Italia ad ottobre, e rilancia così la propria offerta online. Il gruppo televisivo italiano ha presentato Premium Online, sarà disponibile in streaming via internet dal 7 settembre. Molto forte e completa l'offerta di contenuti, ma dal punto di vista tecnologico quello che è interessante è che molti di questi contenuti saranno in HD, in alta definizione, e disponibili anche offline. Digital News. Quindi sicuramente gara dura, mercato molto competitivo sia per quanto riguarda lo streaming audio, sia per quanto riguarda lo streaming video. Fino a qualche anno fa non avremmo neppure potuto concepire una serie di notizie di questo tipo. Allora, la prossima settimana, martedì 16, si apre a Los Angeles l'E3, che in inglese si dice E-Cube, la più importante fiera al mondo per l'industria del videogioco, e non è un caso che alla vigilia di questo appuntamento arrivi l'annuncio di Oculus VR, Oculus Virtual Reality, dell'arrivo sul mercato del visore per realtà virtuale tanto atteso. arriverà nel primo trimestre del 2016, tante cose accadranno da qui al 2016, sarà compatibile con Windows 10 e Xbox One. Ricordiamo che Oculus VR è stata acquistata da Facebook per 2 miliardi di dollari nel marzo 2014 e è più o meno da 3 anni che annuncia l'imminente arrivo sul mercato del proprio visore per realtà virtuale. Tutti gli anni dicono, vabbè, ma l'avete annunciato lo scorso anno dicendo che è imminente, imminente, imminente. Insomma, questa volta non diciamo che ci siamo, però almeno abbiamo una data di arrivo. Digital News. Mentre l'attuale amministratore di Twitter Dick Costolo ha fatto sapere che lascerà l'azienda a partire dal 1 luglio, gli azionisti sono insoddisfatti della crescita troppo lenta del business. Allora, il social network annuncia che sempre da luglio verrà rimosso il limite di 140 caratteri all'interno dei messaggi diretti. Una novità sicuramente interessante per tutti quelli che usano i messaggi diretti ed è un sistema di messaggistica piuttosto utilizzato. Digital News. Secondo Audi Web, ad aprile si sono collegate ad internet in Italia 29,2 milioni di persone. Nel giorno medio il pubblico che si collega da computer è invece di 21,7 milioni e di 17,2 milioni quello da terminale mobile. Ovviamente in questo caso alcuni vengono contati due volte, perché se io mi collego sia da computer che da smartphone vengo contato sia da una parte che dall'altra. Il numero di persone nel giorno medio è un po' più basso perché ci sono anche alcuni che si collegano raramente, invece quelli del giorno medio sono di fatto quelli che in pratica tutti i giorni si collegano a internet. Digital News. Ultima notizia, conferma del fermento che c'è nel mercato dei servizi web per le consegne di cibo a domicilio. È notizia di pochi giorni fa che Just Eat ha acquisito due società operative in Italia, Click e Mangia a Milano e Deliverrex a Roma. Just Eat è un operatore britannico quotato a Londra ed è una delle principali piattaforme che mette in contatto chi fa consegna a domicilio con i clienti. Quindi io vado sul sito internet, troverò una serie di negozi che già per conto proprio fanno consegna a domicilio, ma in questo modo vengono integrati in una piattaforma che poi geolocalizza anche il cliente. Quindi se io capito in una città, apro questo tipo di servizio, troverò tutta una serie di operatori, dalla pizzeria al taglio a mille altre proposte, che mi consegnano a domicilio il cibo di qualsiasi genere. Se facessimo un notiziario ogni settimana sugli attacchi informatici in giro per il mondo, avremmo parecchie notizie da inserire, però forse sarebbe anche un po' noioso. Questa settimana, ad esempio, è stato svelato che l'attacco al Parlamento tedesco scoperto un mese fa sarebbe ancora in corso. Pensate un po', Ma le minacce sono molte, frequenti e soprattutto interessano tutti. Se ne è parlato al Security Summit che c'è stato a Roma questa settimana, è uno degli appuntamenti del CLUSIT, che è l'Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica. Secondo il rapporto del CLUSIT, il cybercrime si conferma come causa principale di attacchi gravi a livello globale, quindi anche in Italia. Il 60% di questi attacchi va ricondotto a finalità criminali, in costante crescita negli ultimi anni. In particolare, secondo il CLUSIT, sono aumentati del 68% rispetto all'anno precedente gli attacchi in supporto ad attività militari e paramilitari. Quindi questo è un problema non solo per le aziende e i cittadini, ma anche e sempre più per gli stati. E tra le notizie appunto che potremmo raccontare ogni settimana ci sono parecchi attacchi di spionaggio tra stati. Poi in questo caso andare a verificare la notizia è estremamente complicato. Comunque un dato importante che riguarda tutti. Ne abbiamo parlato con Corrado Giustozzi, che è un importante esperto di security in Italia, fa parte anche dell'ENISA, l'agenzia europea che si occupa della sicurezza delle reti in Europa. Sono più che quotidiani, purtroppo sono fenomeni non rari neanche nei nostri paesi, non finiscono a volte sui giornali solo per questioni di numeri. Da noi non è successo che hanno rubato 83 milioni di account o 30 milioni di carte di credito, come sono successe a molte grandi organizzazioni americane. però con numeri minori le cose succedono anche da noi, soprattutto con le organizzazioni più deboli, per esempio nel settore della sanità sono successi, diciamo, incidenti o furto di dati abbastanza importanti, e anche in molti altri casi. Quello che sta succedendo soprattutto da noi sono fenomeni magari più striscianti ma estremamente pervasivi e molto dannosi, quale il fenomeno del ransomware, ovvero quei virus o comunque malware che entrano in azienda con varie forme, tipicamente attraverso un allegato di posta o cose del genere, e poi cifrano tutti i dati di tutti i server aziendali, quindi li rendono incomprensibili a chi non ha una chiave per decifrarli, e chiaramente il malvivente chiede un riscatto per dare questa chiave, il riscatto che tipicamente richiede un importo abbastanza piccolo, intorno ai 700-800 euro equivalenti, che bisogna pagare entro poco tempo, perché se uno paga entro 6 ore paga poco, entro 12 ore paga un po' di più, entro 24 ore paga tanto e oltre 24 ore non può più pagare, quindi ha perso completamente i suoi dati. Moltissime aziende, soprattutto piccole e medie in Italia, sono state vittime di questo ricatto e molte hanno avuto dei seri problemi, perché purtroppo questo strumento è dannatamente ben fatto e non è quasi mai possibile riuscire a recuperare i dati se non pagando, e questo è molto grave. Sì, anche se gli esperti di sicurezza dicono non pagate. È vero, dicono non pagate per non incentivare il fenomeno. Il problema è che molte aziende spesso non hanno un'alternativa al pagare, perché chi può non pagare è colui che ha, per esempio, fatto le copie di sicurezza aggiornate al giorno prima e quindi dice: che mi importa, non pago, perdo soltanto mezza giornata, recupero tutti quanti i dati dalle copie di sicurezza e sono a posto. Ma se un'azienda non ha le copie di sicurezza o ce l'ha a un mese prima, a questo punto l'alternativa è: pago 700 euro oppure ho perso un mese di lavoro e non so come recuperarlo e magari mi ci vuole un altro mese per riuscire dalla carta. E purtroppo queste organizzazioni poi sono molto serie, nel senso che difficilmente danno, diciamo ingannano, per cui pagando si ottiene davvero la chiave che apre davvero i file con grande tempestività, e quindi alla fine purtroppo la cosa spesso più sensata, ma spesso anche l'unica da fare, è pagare. Se uno si prepara adeguatamente non subisce un attacco ransomware? Hai detto bene, la preparazione è la chiave, perché l'attacco ransomware può capitare, è capitato anche in organizzazioni veramente al di sopra di ogni sospetto, organizzazioni che lavorano nel campo della difesa, per esempio, anche in Italia. Allora la preparazione non impedisce il momento dello stupido, perché può capitare a chiunque di cliccare su un allegato in buona fede e beccarsi il ransomware. La preparazione aiuta a recuperare dopo l'incidente, per cui se io ho davvero tutte le mie copie di salvataggio, di backup, messe in un posto sicuro, offline, perché attenzione, molti se la copia è semplicemente su un server in rete, verrà cifrata pure la copia di backup, quindi avete perso anche il backup, quindi un backup fatto per bene, messo offline o messo da un'altra parte, quindi in un posto non raggiungibile dal ransomware, allora è facile recuperare tutto quanto. Preparazione significa proprio questo: tenere in considerazione che un incidente potrà sempre succedere, quindi avere chiaro che cosa fare in caso di incidente. Tu ci hai detto che il massimo della sicurezza lo si ottiene se uno fa il backup offline, che può sembrare paradossale, strano, in un mondo che è always on, sempre online, e che va sempre più verso il cloud. Fare qualcosa che è offline, non è online, mi sembra quasi anacronistico. Questo significa che poi in realtà molte strategie di security oggi stanno andando verso questa direzione? Lo si fa veramente? Beh, questo, diciamo, nel caso particolare dei backup lo si è sempre fatto, perché vale l'antico principio di non tenere tutte le uova nello stesso paniere. Il backup, una volta che l'hai fatto, lo dovresti per esempio portare in un posto molto lontano da dove sei. Le banche fanno così, nessuna banca fa il backup dei propri sistemi e lo lascia lì, perché se va a fuoco il CED va a fuoco anche il backup, o se c'è un terremoto che distrugge il CED distrugge anche il backup. Quindi quello che si dovrebbe fare è proprio fare il backup su un media che sia possibile mettere offline,